a contarti quelle cose che non ho detto mai a nessuno, quei segreti che nascondo nell'anima. E mi avvicino a te, che sai come proteggermi da quei pensieri miei che oggi non vorrei sentire dentro me. Vorrei vedere le cose come te. Seguo la luna e cerco in te le risposte ai miei perché. Prova a seguire la tua scia che mi porta via lontano verso nuove mete, nuovi stimoli. Gli sbagli miei e forse non saprei spiegarti mai il perché. Vorrei restare ancora un po' con te, che sai come proteggermi da quei pensieri miei che oggi non vorrei sentire dentro me.